Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi vi invito a una riflessione su un elemento che è emerso con grande chiarezza dai risultati delle elezioni europee che si sono svolte la settimana scorsa, cioè la pesante sconfitta che un po' in tutta Europa, con un'unica eccezione forse in Grecia, hanno subito le forze che si richiamano alla tradizione socialista. È una sconfitta che è segnata dalla perdita di voti, dalla perdita di seggi e che, ripeto, rappresenta una tendenza comune a tantissimi paesi dell'Unione Europea. E allora torna utile per riflettere su questo tema un libretto appena uscito di Giuseppe Berta, che è un professore di storia contemporanea alla Bocconi di Milano, che si intitola appunto Eclisse della socialdemocrazia. Sembra quasi un pronostico sui risultati delle elezioni. Il libro è pubblicato dal Mulino, sono 136 pagine, 10 euro. L'autore è perentorio e si chiede se esista un'identità socialdemocratica, un profilo politico specificamente ascrivibile alla socialdemocrazia europea. Si pone questa domanda perché, se la risposta sarebbe sicuramente affermativa per il passato, la risposta per l'oggi è certamente no. La sinistra, l'identità socialdemocratica, anzi, aggiunge Berta, si trova oggi disarmata e priva di una tavola dei valori sui quali orientarsi. E quindi si rovescia in qualche misura quella che era stata la previsione del grande economista Schumpeter, il quale riteneva che il capitalismo sarebbe fatalmente scivolato in una versione laburista. E piuttosto, dice Berta, è la socialdemocrazia che è ormai impregnata di umori capitalisti. Aderisce insomma al capitalismo il movimento socialdemocratico senza più essere capace o addirittura volerlo trasformare. E si è persa anche la natura del modello sociale europeo, che deve la sua caratteristica proprio al contributo dei movimenti laburisti e socialdemocratici europei negli ultimi 50-60 anni. E allora, in queste condizioni, che spazio può avere il socialismo democratico in Europa? Lo chiediamo all'autore di questo libro. Buongiorno a Giuseppe Berta. Buongiorno. Professor Berta, le conclusioni delle elezioni europee confermano l'analisi che lei ha condotto in questo libro, Eclisse della socialdemocrazia? Direi che le confermano anche al di là delle peggiori previsioni. Mi sembra infatti che la sinistra europea sia in uno stato, come dire, di logoramento che proprio le elezioni europee hanno reso molto evidente. A questo punto probabilmente la sinistra europea deve ripensare se stessa se vuole avere un futuro. In quale direzione, secondo lei? Ecco, in quale direzione? Questa è una domanda veramente importante. Io direi che se guardiamo all'esperienza storica della socialdemocrazia europea, siamo colpiti dal fatto che essa ha costruito il welfare state nei tre decenni dopo la seconda guerra mondiale. Welfare state e l'economia mista sono state le due grandi realizzazioni della socialdemocrazia europea. Poi è andato in crisi tutto questo in seguito ai costi crescenti dello Stato sociale. E poi la socialdemocrazia è tornata sulla scena accettando fino in fondo la globalizzazione e pensando anzi che accelerando la globalizzazione se ne sarebbero estesi i vantaggi a tutti. La crisi globale recente ha dimostrato che non è così, che le diseguaglianze si sono approfondite, si sono estese e che soprattutto c'è un grande tema scoperto, quello dei movimenti migratori, dell'immigrazione. La sinistra europea non ha saputo dare una risposta ai problemi dell'immigrazione e non ha saputo infondere sicurezza. Ora, per una forza politica che aveva fatto della sicurezza sociale la chiave di volta della sua politica, questo è un elemento di straordinaria debolezza, a mio avviso. Ecco, c'è un'osservazione che vorrei sottoporle. Uno studioso francese ha notato come ormai in tutta Europa i movimenti socialisti abbiano una base sociologica costituita non più dai lavoratori e dagli operai, ma soprattutto da classi medie, dai borghesi. E questo che cosa, lei condivide questa analisi, che cosa potrebbe perché significare? Perché sono erose le basi, le storiche basi di massa del socialismo europeo, i grandi sindacati, le concentrazioni di lavoratori, la stessa società industriale forniva la base naturale di riferimento per la sua democrazia europea. Quando tutto questo è venuto meno in seguito al cambiamento sociale, a me sembra che la socialdemocrazia europea abbia scelto di avere ormai soltanto un legame, un appello mediatico rivolto all'elettorato. È chiaro che questo appello mediatico tende a portare in evidenza soprattutto un indistinto elettorato di ceto medio, che però è molto volatile e molto volubile. Allora, a questo punto c'è da chiedersi se una sinistra che non ha più radici sociali, anche lasciando perdere il partito di massa di un tempo, può sopravvivere. Se forse guardiamo all'esperienza americana, vediamo che il successo di Obama è consistito nel riattivare anche i collegamenti sociali, anche i processi associativi che sono poi confluiti nel successo del Partito Democratico alle ultime elezioni presidenziali. In altre parole, io non credo che una sinistra che abbia un volto solo mediatico possa avere uno stabile consenso e successo. Non le sembra particolarmente peculiare la situazione italiana in cui non c'è neanche più una forza che si richiami espressamente alla socialdemocrazia? Certo, questo è dipeso anche dal processo che ha portato alla fine dell'esperienza comunista. Un modo per salvare un nucleo di quell'esperienza sarebbe stato, come dire, una profonda critica e autocritica dell'esperienza comunista e il tentativo di travasare una parte almeno di quelle forze dentro un alveo socialdemocratico. Questa operazione è stata rimossa, c'è stata una rimozione proprio del passato comunista che ha fatto sì, a mio avviso, che la carta socialista, socialdemocratica, non sia mai stata davvero giocata, e ciò rende ancora più precaria la situazione odierna della sinistra italiana. E allora vedremo come uscirne, magari con un suo prossimo libro. Grazie Giuseppe Berta. Grazie, buonasera, arrivederci. Curiosamente, mentre la socialdemocrazia vacilla, torna in auge Il Capitale di Marx, ma non il famoso libricino del filosofo di Treviri, bensì uno, anche più consistente come numero di pagine, aggiornato, e questo di un vescovo, che deve rivelarsi piuttosto spiritoso perché si chiama appunto Marx, ma Reinhard Marx, e così è intitolato il suo ultimo libro, Il Capitale, con sottotitolo Una critica cristiana alle ragioni del mercato. Il libro è pubblicato da Rizzoli, 320 pagine, 19,50 euro, ed è tradotto da Chiccagalli. Il vescovo è un vescovo importante della Germania, è titolare della diocesi di Monaco e Frisinga, quella dove sedette anche, sia pure per breve tempo, Josef Ratzinger, e quindi probabilmente il vescovo Reinhard è destinato alla porpora cardinalizia. Qui Reinhard non vuole scrivere un compendio della dottrina sociale della Chiesa, della quale pure il prelato è molto esperto, ma avvia nelle prime pagine del suo libro un dialogo con l'altro Marx, il suo omonimo filosofo, ricordando che della città natale di Karl Marx, Reinhard Marx, il vescovo, è stato presule per qualche tempo. E avvia questo dialogo prendendo le mosse da un sacerdote cattolico, poi divenuto vescovo, anzi il vescovo dei lavoratori, come fu soprannominato, Wilhelm von Kepter, noto per le sue posizioni di grande attenzione alle condizioni dei lavoratori intorno alla fine dell'Ottocento. Un'attenzione verso le condizioni dei lavoratori che egli animò da una posizione molto diversa da quella del Marx marxista, perché riconosce il valore sociale della proprietà e incoraggia i lavoratori a organizzarsi per ottenere migliori condizioni di lavoro, con ciò rinunciando alle prospettive rivoluzionarie. E da qui partono le riflessioni attuali del vescovo Marx, che si concludono con un richiamo all'esigenza di diffondere il modello dell'economia sociale di mercato. Lo scrive infatti il Vescovo, la democrazia liberale, lo Stato di diritto e la libera economia di mercato devono rispondere a un nuovo bisogno di etica. E poi precisa, economia di mercato e capitalismo non sono la stessa cosa e la prospettiva etica è compatibile con l'economia di mercato. Anzi, scrive Marx, questo neoliberalismo piace anche a me, vescovo cattolico e studioso di etica sociale, perché qui si dà all'economia e alla sua amministrazione un deciso fondamento etico, un indirizzo orientato all'eguale dignità di tutti gli uomini. Quindi, come vedete, non c'è un rifiuto del liberalismo, ma un aggiornamento e un richiamo a ritrovare un fondamento etico. E questo naturalmente offre spunto per molte riflessioni di grande attualità e di molto stimolanti anche alla luce della crisi finanziaria ed economica che stiamo vivendo. Su questioni analoghe, anche se attualizzate alla luce della situazione economica e finanziaria che stiamo vivendo, ritorna il cardinale Dionigi Tettamanzi, un altro vescovo importante, l'arcivescovo di Milano, col libro Non c'è futuro senza solidarietà, la crisi economica e l'aiuto della Chiesa, è pubblicato da San Paolo, 144 pagine, 14 euro. Tettamanzi si esprime a favore della solidarietà e parte non da una esegesi biblica ma da un riferimento ai Promessi Sposi, ricordando un episodio di Renzo che dà tutto quello che ha a un povero, dimostrando con questo quella che il cardinale Tettamanzi chiama una forma di solidarietà sapiente e gentile. Ma la solidarietà alla quale richiama con questo libro e della quale ha dato un esempio concreto lanciando il fondo per coloro che hanno perso lavoro nella diocesi di Milano, un fondo lanciato nella scorsa nottata di Natale e dotato di 1 milione di euro, a questa solidarietà, dicevo, il cardinale richiama il fatto che non si può disgiungere la sobrietà. La sobrietà, spiega Tettamanzi, non vuol dire essere spilorci, la sobrietà, aggiunge, è un bene più grande, non è virtù negativa che spinge al calcolo e alla rinuncia, ma è l'atteggiamento di chi è consapevole del limite, proprio per creare spazi ad altri, di chi non espande i propri domini all'eccesso, proprio perché altri abitino la terra, di chi risparmia non per mettere via per sé, ma per condividere quello che può, di chi non si esibisce non perché non ha nulla da comunicare agli altri, ma perché preferisce aspettare modi e tempi appropriati e non sospetti per farlo. E su queste due parole, solidarietà e sobrietà, Tettamanzi ricorda anche i caratteri principali della dottrina sociale della Chiesa. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, cambiamo adesso genere e passiamo al poliziesco e ai gialli. Vi presento un nuovo personaggio della scena poliziesca che ha avuto un grande successo nel suo paese, la Germania, ed ora è riproposto in Italia, e Kemal Kayankaya, la creazione di Jacob Arjuni, che è uno scrittore tedesco che ha rinnovato la letteratura poliziesca del suo paese con una serie di libri che hanno a protagonista appunto questo investigatore turco un po' sgualcito che lavora a Francoforte. E di Kayankaya adesso viene ripubblicata la prima avventura, quello che gli aveva dato il successo, Happy Birthday Turco, è pubblicato da Marcos e Marcos, 222 pagine, 10 euro, tradotto da Gina Maneri. Questo volume è il primo di una nuova serie di Marcos e Marcos, nella quale vengono riproposti autori significativi di quella casa editrice che danno vita alla collana I Mini Marcos, offerta a 10 euro ciascuno. Il secondo libro di questa serie è Ho paura Torero di Pedro Lemebel, 220 pagine, 10 euro, tradotto da ML Cortaldo e Giuseppe Mainolfi. In questo caso l'autore è un famoso artista cileno che ci riporta nel pieno dell'epoca di Pinochet, del quale ci dà un ritratto in certi momenti irresistibile, in senso ironico naturalmente, raccontando l'avventuroso tentativo di Carlos di attentare proprio alla vita del dittatore. Di Lemebel, il Marcos e Marcos propone anche il volume più recente, Baciami ancora forestiero, 150 pagine, 13,50 euro. Torniamo ai turchi e ai gialli con uno scrittore turco, Mehmet Murat Somer, di cui Sellerio pubblica Scandaloso omicidio a Istanbul, sono 306 pagine, 13 euro, tradotto da Annalia Proietti Ergün. Anche quest'autore, come Lemebel, è espressione della letteratura gay e ha scritto una serie di polizieschi ambientati nei quartieri della Movida di Istanbul. Un giallo insolito per l'ambientazione è quello di Thanos Kondilis, omicidio a Olimpia, pubblicato da Nord, 408 pagine, 18,60 euro, tradotto da Andrea Di Gregorio. L'autore è uno scrittore e archeologo greco che dedica quindi molta attenzione alla ricostruzione dell'Olimpia del V secolo a.C., dove si svolge appunto l'omicidio che serve da trama a questo libro. Qui uccidono uno sportivo di Sparta durante le Olimpiadi, un omicidio che potrebbe mettere a repentaglio le sorti dell'intera Grecia. Sentite alcune righe che descrivono appunto la famosa statua di Zeus nel tempio a lui dedicato a Olimpia. Dopo pochi passi, lo sguardo di Alexandros fu catturato dalla statua colossale di Zeus che dominava serena il fondo della cella. Il cuore di Alexandros batteva forte mentre i suoi occhi incrociavano quelli del dio. Li vide lampeggiare e si sentì minuscolo e insignificante dinanzi a lui. Il dio aveva un'aria severa, ma non distante. Un imazio ne copriva il corpo dalla vita in giù e gli arrivava fino ai piedi che calzavano dei sandali. Poi risaliva alle spalle del dio finché un lembo non ricadeva con grazia sulla spalla sinistra e sul petto. Il capo del dio era cinto di una corona d'olivo di oro purissimo e sulla mano destra teneva la Nike, una figura di donna fatta d'oro e d'avorio che rappresentava la vittoria. Nell'altra mano, Zeus reggeva uno scettro d'oro che culminava in un'aquila che quasi toccava al soffitto della cella. Il trono del dio era anch'esso d'oro e ornato di vari bassorilievi. La spalliera sovrastava di poco le spalle del dio, mentre la grande testa di Zeus arrivava quasi a toccare il soffitto. Non riesco a immaginare come questo Fidias, lo scultore, sia riuscito a compiere un capolavoro di tali dimensioni. Eppure è molto semplice, amico mio, e te lo dico perché ne ho seguito la costruzione. La statua è all'interno vuota ed è fatta di ottimo legno. Incredibile, esclamò Alexandros davvero stupito. Proprio così, Alexandros. Vedi, all'interno della statua c'è un grosso palo che è stato affondato nelle fondamenta stesse del tempio. Era indispensabile, perché, come mi aveva spiegato l'ingegnere che sovrintendeva alla realizzazione dell'opera, garantiva che i metalli preziosi e l'avorio stesso sarebbero rimasti attaccati alla statua colossale, senza timore che, per esempio, nell'eventualità di un terremoto, si distaccassero. E la statua stessa, così, non corre il rischio di cadere dal basamento. Infine, sappi che la testa di Zeus è stata posta sul corpo con una gru prima che si iniziassero i lavori di copertura. Davvero geniale, commentò Alexandros ammirato. A quanto mi dici, insomma, questo Fidias è davvero un ottimo artista. Apro una parentesi sulla cultura classica proponendovi il manuale di Epitteto, tradotto niente meno che da Giacomo Leopardi. Questo libro è pubblicato da sé, sono 74 pagine e costa 11,50 euro. Epitteto è uno dei grandi esponenti della scuola stoica, era nato. Morì famosissimo a Napoli nel 180, un filosofo, scrive Antonio Banfi, un altro grande della filosofia italiana, scrive Banfi, dicevo, nella postfazione, che si pone come obiettivo quello di definire, determinare la vita morale come l'unica via di guarigione dell'umanità afflitta da tanti mali. E lo fa, aggiunge Banfi, con un discorso popolare, semplice, incisivo, ricco d'aforismi ed immagini. Leopardi lo traduce nel 1825, senza poter vedere pubblicata l'opera. Un'opera che lo affascina perché Epitteto spinge ad astenersi dalle passioni estreme, anzi, come scrive Leopardi nel suo preambolo, spinge a ricercare una tranquillità dell'animo e uno stato libero da passione, un non darsi pensiero delle cose esterne. Chiudiamo la parentesi classica, ma restiamo nell'ambito dei classici della letteratura noir e non solo, con l'opera completa di Edgar Allan Poe, di cui quest'anno ricorre il bicentenario della nascita. Le opere sono Tutti i racconti, le poesie e Gordon Pym, pubblicato da Newton Compton, curato da Tommaso Pisanti, 988 pagine, 14,90 euro. Poe naturalmente è un maestro del mistero, dell'incubo, del terrore, famosissime sono alcune novelle qui presentate come La caduta della casa Usher, I delitti della Rue Morgue, La lettera rubata, Il pozzo e il pendolo e tanti altri. La frenetica attività letteraria di Poe non gli porta fortuna. Poe era nato da una famiglia povera, era stato adottato, poi ripudiato dalla famiglia adottiva e per condurre una vita irrequieta ed errabonda che si sarebbe conclusa ad appena 40 anni. Viene considerato il Poe del XX secolo Cornell Woolrich, uno scrittore americano vissuto tra il 1903 e il 1968, autore solitario e prolifico nel genere dei polizieschi e del noir. Lui, per la verità, avrebbe sognato un'altra carriera, voleva ripercorrere le orme di Francis Scott Fitzgerald, ma a partire dagli anni 30 capì che non ce l'avrebbe fatta e si accontentò dei polizieschi, genere per il quale scrisse una produzione vastissima, che però si esaurì nel 1948. Tra l'altro si ispira una sua opera La finestra sul cortile di Hitchcock, e lui si lamentò anche che il grande regista non lo avesse neanche invitato a vedere il film che aveva tratto da una sua opera. Per conoscerlo adesso possiamo accostarci al libro pubblicato da Kowalski, Questa notte da qualche parte a New York, 448 pagine, 24 euro, tradotto da Stefano Massarone, curato da Francis Nevins, nel quale troviamo alcune novelle e il romanzo breve che dà il titolo alla raccolta. Woolrich è un scrittore originale dalle qualità letterarie notevoli, capace di restituire in esili trame un clima di autentica suspense e spesso di autentica angoscia. Probabilmente proprio il desiderio di seguire la carriera di Fitzgerald non lo aveva mai abbandonato, come dimostrano le righe che vi propongo adesso, che descrivono una situazione della quale molto si è parlato in questi mesi, la grande crisi del 29. Queste righe sono tratte dalla novella Anche Dio sentiva la depressione, dove la depressione naturalmente non è quella psicofisica, ma è quella economica che seguì al grande crack del 29. Questa novella è del 32 e Woolrich la scrive trovandosi lui stesso in una situazione di estrema indigenza. Quell'anno non avevo guadagnato nemmeno un centesimo, se per questo nemmeno l'anno prima, né l'anno prima ancora. La depressione si era stabilizzata e ora veniva accettata come condizione permanente. La discesa verticale era finita e si era livellata in basso, ma con essa erano finite anche tutte le speranze di un cambiamento, di una bacchetta magica che risolvesse il problema, il miraggio di una dea da cartolina di nome Prosperità che distribuisse rose e pepite d'oro indiscriminatamente da una cornucopia colma fino all'orlo. La gente aveva smesso di sperare. Ora la depressione faceva parte dell'esistenza quotidiana, e l'esistenza quotidiana è la cosa più difficile da cambiare. L'hanno scoperto tutti. L'hanno scoperto tutti gli imperatori, i re e i conquistatori. Era il presente, erano gli anni 30, e non si poteva avere l'uno senza gli altri. Persino le canzoni erano condizionate dalla depressione. Brother, can you spare a dime? Non sarò più lo stesso, le stelle hanno perso significato per me. Non ci sono più soldi in banca. Le patate costano meno, i pomodori costano meno. Per la prima volta, l'amore nelle canzoni si classificava al secondo posto. Mentre il nuovo decennio arrancava a fatica, tenendo una mela da vendere in una mano e un cappello per l'elemosina nell'altra, divenne difficile anche solo ricordare il tempo in cui la depressione non c'era. Quell'epoca era diventata leggenda, non apparteneva più alla realtà. C'era stata l'era degli indiani e dei pionieri. C'era stata un'epoca nella quale gli stati si facevano guerra l'un l'altro. Il confettino. Restiamo nel genere con I gialli di Vicolo Voltaire di Pier Domenico Baccalario e Alessandro Gatti, PM Junior, 192 pagine, 11,50 euro. Ci trasferiamo dall'America a Parigi, dove troviamo Annette e Fabrice che indagano su due casi misteriosi e introducono i lettori più giovani alla passione e alla tensione dei libri gialli. E con questo ringrazio Daniele Casagrande e Vittorio Mussini in redazione, Peter Bescapè in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro che radio24.it. passo la linea respiro, vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.